Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Sono riuniti a Torino i ministri della cultura europei ad ospitare il summit alla Reggia di Venaria. Molti sono i temi sul tavolo di questo semestre europeo. E allora cominciamo oggi andando proprio a Torino, a Venaria, da Silvia Bernardi. Buongiorno. Buongiorno. Il ministro della cultura Dario Franceschini ha provato a smuovere l'Europa sulla tassazione degli ebook, chiedendo ai 28 ministri europei della cultura riuniti nel vertice informale di Venaria di non tassare i libri elettronici come un videogioco al 22%. Franceschini ha espresso la volontà di chiedere ai colleghi europei l'impegno a valutare altre ipotesi di tassazione per il libro elettronico, tenendo presente soprattutto il contesto italiano, nel quale l'IVA passerebbe dall'attuale 4% per la carta al 22%. L'obiettivo è quello di cancellare le disparità e arrivare al vertice europeo di novembre con una posizione comune per tutti gli Stati membri. A Venaria Reale la cultura diventa quindi uno dei punti fondamentali delle nuove strategie europee. Il ministro Franceschini, che oggi qui alla Reggia è il padrone di casa, ha detto che per l'Italia, come per l'Europa, un investimento sulla cultura, sulle industrie creative, è un investimento per lo sviluppo, per la crescita e per l'occupazione, aggiungendo che non è più soltanto un problema di tutela, ma anche un problema di investimento sul futuro. La mattinata di lavori si è chiusa con la riconsegna delle 80 monete antiche trafugate illegalmente dalla Grecia. È la prima volta in Italia e una delle pochissime in Europa che un paese restituisce al legittimo proprietario dei beni esportati illegalmente. Linea allo studio. E grazie a Silvia Bernardi. Temi economici anche in primo piano. Oggi il peggior nemico per l'Europa è la disoccupazione dei giovani in generale. Parole queste del presidente della BCE Mario Draghi in un'intervista alla radio francese Europe, che va combattuta soprattutto con gli investimenti, dice Draghi, privati ma anche pubblici. Il presidente della BCE ha poi indicato l'obiettivo: far risalire l'inflazione al 2%. Il numero degli jihadisti europei partiti a combattere in Siria e in Iraq è in crescita, è arrivato circa 3.000, sono i numeri arrivati dal coordinatore europeo per la lotta contro il terrorismo. L'Unione Europea aumenta intanto di 215 milioni di euro gli aiuti alla Siria e ai paesi vicini. Ad annunciarlo è stata la commissaria europea alla cooperazione Kristalina Georgieva a margine dei lavori dell'ONU nella notte. L'assistenza dovrebbe coprire anche i bisogni di decine di migliaia di profughi fuggiti in Turchia negli ultimi giorni, la più vasta ondata di rifugiati dall'inizio del conflitto. Intanto però ad ostacolare i piani europei potrebbero arrivare ancora problemi di bilancio. L'allarme di cui parlavamo ieri a proposito dell'Erasmus potrebbe riguardare altri settori e c'è già chi parla di un autunno caldo per il bilancio europeo. 26 milioni di arretrati accumulati dagli anni precedenti, ai quali potrebbero aggiungersene altri 21 come tagli richiesti dagli Stati membri. Un bilancio colabrodo, quello dell'Unione Europea, anche quest'anno e così nel 2015. E a rischio sono soprattutto i fondi a favore della crescita e della competitività. La cifra esatta del buco di fatture arretrate del 2015 non è ancora definita perché mancano i dati attesi entro fine mese. Quel che è certo è però che questo buco andrà a impattare anche sul bilancio europeo del prossimo anno e che tutto ciò rischierà di far ritardare i rimborsi dei programmi già realizzati o di far restare a secco i programmi in corso, anche perché 26 miliardi di fatture arretrate degli anni precedenti rischiano di sommarsi, come si diceva, altri 2,1 miliardi di tagli per i pagamenti richiesti dagli Stati membri sotto la presidenza italiana. Il punto è però un altro: nel 2015 arrivano a scadenza i programmi del ciclo 2007-2013 ed è quindi il momento in cui tutti gli Stati battono cassa e inviano a Bruxelles fatture per il rimborso. Si tratta di fondi già spesi, concordati dai 28 nei 7 anni precedenti. La stessa Commissione formula la sua proposta di bilancio per l'anno successivo in base proprio alle stime dei pagamenti che gli Stati prevedono di richiedere, ma poi, paradossalmente, questi stessi le ignorano, decidendo di tagliare il bilancio per l'anno a venire. Insomma, un effetto a valanga su cui ha messo già in guardia il commissario UE per la programmazione finanziaria, Jacek Dominik. Il sistema così non può reggere. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ancora una buona giornata e un buon pomeriggio da Anna Migliorati. Vi ricordo, l'Europa torna questa sera a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.